Carissimi, Gesù mi protegga le mie figlie e i miei figli. 1. In seguito al mandato apostolico ricevuto dal Signore, la Chiesa non ha cessato di evangelizzare. Molti frutti sono arrivati nel corso dei secoli, per grazia di Dio anche l'opera e ognuno dei suoi fedeli. Come in altre epoche, anche ora in molti ambienti si sta verificando un forte processo di scristianizzazione che porta con sé perdite molto gravi per l'umanità. Dio ha sempre inviato alla Chiesa santi che con la loro parola e con l'esempio hanno saputo ricondurre le anime a Cristo. Come ha scritto il Papa Benedetto XVI nella sua enciclica sulla speranza, il cristianesimo non è soltanto una buona notizia, una comunicazione di contenuti, ma una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. Mi soffermo ora su alcuni aspetti di questa formazione per la nostra vita spirituale per prendere parte alla nuova evangelizzazione, come l'ha definita il Beato Giovanni Paolo II. Nel 1985 il primo successore di nostro padre ci inviò una lettera pastorale, spingendoci a partecipare molto attivamente a questo apostolato, insistendo sulla necessità di impegnarci nella formazione personale e nella trasmissione alle anime di questo lavoro. Anche Benedetto XVI guida ora i cristiani per gli stessi sentieri. La recente creazione del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione è una dimostrazione di questo interesse. Tutti ci sentiamo interpellati dalle sue parole nella recente Giornata Mondiale della Gioventù, quando incoraggiava i giovani a dare testimonianza della fede nei più diversi ambienti, anche là dove c'è rifiuto o indifferenza. Non si può trovare Cristo e non farlo conoscere agli altri. Pertanto, non riservate Cristo solo per voi. Comunicate agli altri la gioia della vostra fede. Il mondo ha bisogno della testimonianza della vostra fede. Ne ha bisogno certamente Dio. La formazione per la nuova evangelizzazione. Come i primi cristiani. 2. Dato che l'opera è venuta al mondo proprio per ricordare la chiamata universale alla santità e all'apostolato, San José María affermava che il modo più facile per capire l'opera è di pensare alla vita dei primi cristiani. Essi vivevano a fondo la loro vocazione cristiana. Cercavano seriamente la perfezione alla quale erano chiamati per il fatto semplice e sublime di aver ricevuto il battesimo. Non si distinguevano esteriormente dagli altri cittadini. A Pentecoste il Paraclito spinse gli apostoli e gli altri discepoli a evangelizzare, ravvivando nelle loro menti gli insegnamenti di Gesù. Basta leggere gli scritti del Nuovo Testamento per avere la conferma che una delle prime occupazioni dei dodici consisteva nel piantare il seme della fede e alimentarla con i loro insegnamenti a parole e per lettera. Il paziente lavoro di formazione che il Signore fece con gli apostoli per 3 anni, prolungato senza sosta da loro e dai loro collaboratori, con l'assistenza dello Spirito Santo, trasformò il mondo antico sino a farlo diventare cristiano. La necessità e l'importanza della formazione. 3. San José María spinse tutti ad acquisire e migliorare costantemente la propria formazione cristiana, presupposto indispensabile per crescere in intimità con Cristo e per farlo conoscere ad altre anime. Discite benefacere, imparate a fare il bene, ripeteva con parole del profeta Isaia. Infatti è inutile che una dottrina sia meravigliosa e salvifica se non ci sono uomini in grado di metterla in pratica. Fin dai primi passi da sacerdote, egli dedicò molte energie a formare dottrinalmente le persone che si avvicinavano al suo lavoro pastorale. Poi, man mano che l'Opus Dei cresceva, intensificò questa dedicazione e predispose i mezzi necessari per dare continuità all'attività formativa. Prima di tutto dei suoi figli, ma anche delle innumerevoli persone, uomini e donne, giovani e gente matura, sani e malati, che si mostravano disposti ad accogliere nelle loro anime questo messaggio. Nostro padre contava 5 aspetti della formazione: umano, spirituale, dottrinale, religioso, apostolico e professionale. Affermava che un uomo, una donna, si costruisce un po' alla volta, e non arriva mai a completarsi del tutto, a realizzare in se stesso tutta la perfezione umana di cui la natura è capace. In un determinato aspetto può anche arrivare a essere il migliore rispetto a tutti gli altri e forse a essere insuperabile in quella specifica attività naturale. Invece, come cristiano, la sua crescita non ha limiti. Sul piano umano, se ci esaminiamo con sincerità, scopriamo immediatamente di aver bisogno di perfezione. L'apostolato, a sua volta, è un mare senza sponde e serve preparazione per annunciare l'amore di Sul piano umano, se ci esaminiamo con sincerità, scopriamo immediatamente di aver bisogno di perfezionare il nostro carattere, il nostro modo di essere. Sul piano umano, se ci esaminiamo con sincerità, scopriamo immediatamente di aver bisogno di libertà, docilità, senso di responsabilità. 4. L'identificazione con Cristo richiede la libera cooperazione umana. Dio, che ti ha creato senza di te, non può salvarti senza di te. La risposta personale assume un ruolo imprescindibile, ma dove non arriva la creatura interviene la grazia di Dio. Il Signore ci ha lasciato la libertà, che è un bene molto grande e l'origine di molti mali, ma è anche l'origine della santità e dell'amore. L'origine dell'amore. Solo gli esseri liberi sono in condizione di amare e di essere felici. Difficilmente l'amore cresce dove domina la coercizione. E non c'è fedeltà senza la decisione libera e determinata di identificarsi con la volontà di Dio. La Chiesa possiede il rimedio per curare la debolezza umana, conseguenza del peccato. Cristo, infatti, ci ha liberati dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. State dunque saldi, esorta l'Apostolo, e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Vuoi considerare, invita San José María, se mantieni immutabile e ferma la tua scelta per la vita, se rispondi liberamente di sì alla voce di Dio amabilissima, che ti stimola alla santità. La decisione personale di rispondere alla chiamata di Dio nella Chiesa e nell'opera è proprio la ragione della nostra perseveranza. Non solo, ma la libertà si realizza pienamente, acquista tutto il suo significato, solo mediante la donazione amorevole alla volontà di Dio, come fece Gesù. La libertà personale, che difendo e sempre difenderò con tutte le mie forze, mi induce a chiedere con sicura convinzione, pur cosciente della mia debolezza, che cosa ti aspetti da me, Signore, perché io volontariamente lo compia? E nostro Padre aggiunge, Cristo stesso ci risponde, Veritas liberabit vos, la verità vi farà liberi. Qual è la verità che inizia e porta a compimento in tutta la nostra vita il cammino della libertà? Ve lo dirò sinteticamente, con la gioia e la sicurezza che derivano dalla relazione fra Dio e le sue creature. Sapere che siamo opera delle mani di Dio, che siamo prediletti dalla Santissima Trinità che siamo figli di un Padre eccelso. 5. Aderendo all'Opus Dei, ognuno accetta liberamente l'impegno di formarsi per dare compimento alla missione dell'opera in seno alla Chiesa, e per questo ricorre colmo di gratitudine ai mezzi specifici di formazione che San José María, fedele al divino volere, volle stabilire. Considereremo seriamente e con frequenza l'obbligo di formarci bene sul piano dottrinale, che è l'obbligo di prepararci perché gli altri capiscano, perché poi, a loro volta, quelli che ci ascoltano sappiano esprimersi. Da qui la necessità di partecipare ai mezzi di formazione disposti ad approfittarne sino in fondo. Scrive Giovanni Paolo II che nell'opera formativa alcune convinzioni si rivelano particolarmente necessarie e feconde. La convinzione, anzitutto, che non si dà formazione vera ed efficace se ciascuno non si assume e non sviluppa da se stesso la responsabilità della formazione. Questa, infatti, si configura essenzialmente come autoformazione. La convinzione, inoltre, che ognuno di noi è il termine e insieme il principio della formazione. Più veniamo formati e più sentiamo l'esigenza di proseguire e approfondire tale formazione. Più veniamo formati e più ci rendiamo capaci di formare gli altri.